Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Del secondo anno di corrispondenza. Una bottiglia di birra non del tutto vuota, un posacenere sporco con 5 mozziconi, 3 di sigaretta e 2 di canna. Un paio di mutande verde chiaro, un reggiseno bianco, uno specchietto. I 4 volumi del Quartetto di Alessandria in edizione originale. Una confezione di assorbenti. Ottavio Tondi, Quaderni del letto. L'incontro avvenne in Piazza Vittorio, sul lato che guarda Santa Croce in Gerusalemme. Sedettero a un tavolino di un chiosco davanti all'ingresso dei giardini. Il tempo lo permetteva. Malgrado fosse ancora febbraio, la giornata era assolata. Una giornata di falsa primavera, tipicamente romana. La luce del tardo mattino aveva l'intensità delle false promesse e in questo, come pure nel luogo dell'appuntamento, era possibile leggere i segni premonitori di molte cose a venire. La redazione aveva deciso che il tentativo fosse affidato ad Antonio Gnoli, nonostante la già menzionata fama di intervistatore di grandi vecchi. La scelta si rivelò particolarmente indovinata. Gnoli era giornalista per modo di dire. Aveva una sensibilità raffinata, di molto superiore alla sensibilità di cui è dotata la maggioranza dei giornalisti. Uomo di maniere ruvide, all'apparenza scostanti, e tuttavia capace di tenerezze nascoste. In lui si percepiva la natura del filosofo. L'essenza di una vita lo interessava più della grossolanità dei fatti. Il che forse spiega anche la sua predilezione per i superstiti di quella che lui chiamava la generazione patriarcale. Tempo addietro aveva esplorato la solitudine di Wilflingen per far visita a Ernst Jünger nel compimento del suo 100° compleanno e proprio su indicazione di Jünger era poi andato nei boschi di Rittimatte in Svizzera, nella non meno solitaria casa di Albert Hofmann. Vi era stato 2 volte. A distanza di un paio di anni, insieme all'amico Franco Volpi, anche lui filosofo, docente di non so più quale università. Lo scopritore dell'LSD non era vecchio quanto Jünger, ma aveva comunque molte storie da rievocare e riflessioni da condividere. Da quegli incontri, Gnoli e il suo amico ricavarono un libro, nel quale, tra le tante cose, si legge «L'attrazione che la droga può esercitare dovrebbe essere dello stesso tipo di quella che Kafka avvertiva per le società di assicurazioni». Un parallelo interessante, per 2 ragioni almeno. Per le conseguenze che l'intervista avrebbe avuto sull'esistenza di Ottavio Tondi, ma di questo parleremo più avanti, e per le cose dette da Tondi proprio in quell'occasione. Chi l'ha conosciuto di persona può testimoniare che Tondi non aveva affatto l'abitudine di parlare per citazioni, parafrasi e allusioni colte. Si esprimeva con naturalezza estrema, con parole sue, senza mai ostentare le tante letture. Quel mattino, però, tenne un atteggiamento affatto diverso. Non fece che servirsi di frasi e immagini d'altri. Il riferimento a Borges ripreso nel titolo dell'intervista fu soltanto uno fra molti. Mi limiterò a un paio di esempi. Quando, nel rispondere a Gnoli che gli chiede lumi sulla provenienza della sua passione per la lettura, Tondi dice di sapere soltanto che un giorno, intorno ai 13-14 anni, si sorprese a leggere perfino le carte rotte che trovava per strada, il riferimento al Don Chisciotte è evidente, anche perché, proseguendo nel ragionamento, si premura di aggiungere come il padre lo scoraggiasse con ogni mezzo, nel timore che questo passare le notti in bianco e i giorni al buio, sempre chino su qualche foglio stampato, gli avrebbe inaridito il cervello. E quando Gnoli gli domanda quale sia la cosa più preziosa, più irrinunciabile che abbia mai trovato in un libro, Tondi risponde come risponde Amleto a Polonio, che gli domanda cosa stia leggendo. Parole, parole, parole. Ed è chiaramente a Kafka, a una delle lettere a Felice, che Tondi pensa quando afferma che leggere significa chiudersi fino all'eccesso e pertanto non si può essere abbastanza soli quando si legge. E non si può avere abbastanza silenzio attorno, e la notte non è mai abbastanza notte. A questi che ho ricordato va aggiunta la miriade di altri rimandi più o meno palesi e testuali. L'intervista occupò un'intera pagina del quotidiano, più il richiamo nell'apertura dell'inserto culturale. Uno spazio certo ragguardevole, appannaggio quasi esclusivo di figure di prima grandezza e tuttavia esiguo per il numero di autori che Tondi evocò con le sue dichiarazioni. Nessuno di essi venne esplicitamente citato, neppure dall'intervistatore, il quale non poteva non accorgersi che non una delle risposte fornite dall'intervistato fosse farina del suo sacco. Spontaneo chiedersi perché Gnoli abbia accettato di stare a questo gioco, perché non abbia chiesto spiegazioni a Tondi di un comportamento a dir poco strano e soprattutto perché nel pezzo che consegnò al giornale non abbia lasciato trasparire in alcun modo la verità, come fosse caduto con tutte le scarpe nella trappola tesagli da un ragazzotto impertinente. La gran parte delle allusioni era troppo raffinata per essere colta da un lettore mediamente avvertito, ma ne restavano comunque molte che non potevano passare inosservate anche a chi conservasse una memoria vaghissima di quanto appreso alle medie inferiori. Del resto, ce n'era per ogni gusto, latitudine e grado di preparazione. Si andava dai classici più immancabili come Dante e Omero a scrittori rasenti la letteratura di genere, quali Ballard e Simenon, passando fatalmente per i maggiori linguaioli del nostro Novecento, vale a dire Gadda, Landolfi, Manganelli, e poi mostri sacri che potrebbero affiorare pescando a caso da una buona biblioteca e che tutti possono immaginare, già che si tratta di Dostoevsky, Proust, Joyce, Nabokov, Beckett, eccetera, per finire con autori decisamente più oscuri. Vedi per esempio, e nomino soltanto i primi due che mi vengono in mente, Robert Walser e George Rodenbach. Interrogativi maggiori suscita ovviamente l'atteggiamento dell'intervistato. Di fatto, Tondi non mentì su nulla. L'inganno, se inganno si può chiamare, fu limitato al raccontare se stesso tramite i libri letti. E tale fu la cura nel selezionare e manipolare frasi e immagini che non avrebbe potuto dare confessione più veridica. Si stenta tuttavia a comprendere la necessità di una simile affettazione. L'ipotesi più scontata è che Tondi volesse dar sfoggio di erudizione, come non può escludersi che Gnoli l'abbia lasciato fare proprio perché intenerito da come il ragazzo cercasse di impressionarlo rovesciandogli addosso secchiate di buone letture. D'altra parte, tutto può essere. Di quell'incontro è rimasto soltanto il racconto che ne fece Gnoli. Cosa i due si siano effettivamente detti, cosa sia rimasto taciuto nell'intervista comparsa sul Presente, non lo sapremo mai. Sappiamo però che l'intervista divenne motivo di pentimento. Una leggerezza madornale che ancora non mi perdono. Tondi non dice molto di più al riguardo, ma quell'ancora autorizza a pensare che il rammarico non giungesse a distanza di tempo, ma fosse di non molto successivo all'evento, se non addirittura immediato, o meglio ancora precedente. Dico meglio ancora perché è mia convinzione che Tondi non avesse alcuna voglia di fare quell'intervista e che quel suo parlare per citazioni fosse un modo di estraniarsi, di dissociarsi da qualcosa che riteneva inopportuno, un modo per dire che non era davvero lui la persona che stava concedendo quell'intervista. Sono io, ma non proprio io. Vi parlo malgrado me. Perché si concesse dunque? Fu forse il direttore editoriale a persuaderlo a vincere le sue resistenze? Non credo. Anche se, visto il temperamento del direttore editoriale, l'insistenza deve essere stata asfissiante. Credo che Tondi abbia deciso di andare contro la propria natura per via del padre, il cui fantasma compare a più riprese, sia nell'intervista che nella corrispondenza, e sempre con valenze negative e opprimenti. E anche laddove non lo nomina espressamente, Per esempio quando in uno dei suoi ultimi messaggi a Ligeia sostiene di avere sempre letto a dispetto di circostanze avverse, è alla versione paterna che pensa. «Non so quanto sarà difficile la mia vita», si legge nell'intervista, «ma i miei genitori non l'hanno facilitata. Mia madre, poverina, me l'ha complicata morendo, lasciandomi solo con un padre che da sempre pretende di scegliere la carriera che dovrei seguire. Perciò il giorno in cui mi daranno la laurea, se mai me la daranno, sarà per me un giorno di lutto pari quasi al lutto per la scomparsa di mia madre». In queste parole, modellate su una dichiarazione di Gadda, Tondi condensa il risentimento da cui scaturisce la madornale leggerezza che segnerà il suo destino. Il padre di Tondi si chiamava anche lui Ottavio ed era un uomo di tutt'altra pasta. Era cioè un uomo pratico e cinico, per nulla incline alla lettura, anzi irremovibilmente contrario alle fantasticherie, alle evasioni dalla realtà e più in generale a qualsiasi forma di idealismo che la lettura incoraggia. Attributi come poetico e romanzesco erano per lui sinonimo di effeminata inconcludenza. E se poco tollerava che la moglie fosse vorace lettrice, quando vide che il figlio aveva preso più da lei che da lui, l'insofferenza degenerò in una malattia, in odio feroce per l'inutile universo della letteratura, flagello dell'umanità produttrice. La morte della moglie, sopraggiunta in seguito a una lunga malattia, venne accolta dal padre come un'occasione per ricondurre sul giusto binario la formazione del figlio. L'Ottavio, appena novenne, assistette così alla sparizione dei libri che la madre conservava con amore. Un robivecchi li infilò in due grosse buste di plastica per la spazzatura, li scaraventò sul pianale di un'ape e se li portò via senza che l'Ottavio, ormai quarantenne, gli chiedesse una lira. Gli diede anzi una bella mancia per il disturbo, nella speranza che il figlio cominciasse a capire il valore reale delle cose. L'Ottavio padre era un commercialista e nelle sue intenzioni avrebbe dovuto esserlo anche l'Ottavio figlio. Da anni e generazioni la fondazione dell'attività si perdeva nella notte degli Ottavio, lo studio Tondi si adoperava affinché la ridistribuzione delle ricchezze imposta dallo Stato non recasse troppi danni ai suoi assistiti, tutte persone abbienti e ben collocate in quel demimondo imprenditoriale dove qualunque distinzione tra politica e malaffare era ignota o ignorata, che il proseguimento di una tradizione di famiglia tanto meritoria e remunerativa fosse messa a repentaglio per via di una sciocca vocazione onanistica quale quella letteraria era per Ottavio padre inconcepibile. Ottavio figlio poté coltivare il suo amore soltanto nella clandestinità. Ogni volta che veniva sorpreso a sprofondare nelle pagine di un romanzo, la furia punitiva di Ottavio padre si abbatteva su di lui. Le cose migliorarono un poco al raggiungimento della maggiore età, quando Ottavio figlio andò a vivere in un appartamento in via dello Statuto, ereditato dalla madre. Ovviamente Ottavio padre tentò in ogni modo di ostacolare il distacco e costrinse comunque il figlio a iscriversi a economia e commercio, passandogli quantità irrisorie di denaro sufficienti a malapena per non morire di inedia. Le ristrettezze pesavano tuttavia poco a Ottavio figlio, contento della libertà di trascurare gli studi e prendere libri in prestito dalle biblioteche comunali. Passava anche molte ore, per non dire intere giornate, nelle librerie Feltrinelli, che all'epoca erano luoghi rispettabilissimi, senza alcunché da invidiare a una biblioteca comunale. Fu per l'appunto in uno di questi negozi che il direttore editoriale della Bianca conobbe Tondi. L'aveva notato da tempo. Si aggirava tra gli scaffali, dando l'impressione di essere a casa propria, rimettendo al loro posto quei libri che i lettori spargevano per il negozio dopo averli sfogliati. Tale era la simbiosi apparente tra Ottavio e la libreria, che i clienti si rivolgevano sempre a lui per avere consigli. E non sbagliavano, giacché lui ne sapeva molto di più dei veri commessi, i quali lo lasciavano fare. Fu a questi ultimi che il direttore editoriale chiese informazioni, incuriosito dallo strano ragazzo che dispensava pareri sempre molto pertinenti su ogni sorta di opera letteraria. «Viene spesso», gli dissero, «almeno un paio di volte alla settimana, e si trattiene per ore». Lo consideravano una specie di mascotte ormai, ma non avevano idea di chi fosse. Non ci avevano mai parlato. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.